Europa 24. L'antitrust europeo ha accusato formalmente Gazprom di abuso di posizione dominante. Sentiamo. Con una decisione politicamente rilevante, la Commissione europea ha annunciato oggi di aver inviato una dichiarazione di obiezioni a Gazprom, in cui rimprovera al gigante petrolifero un abuso di posizione dominante, in particolare nell'Europa centrale. Secondo l'esecutivo comunitario, la società russa avrebbe applicato prezzi diversi tra i paesi dell'Unione europea e imposto, tra le altre cose, il divieto di rivendere il gas a terzi. La decisione comunitaria giunge in un momento molto delicato, mentre le relazioni tra l'Unione Europea e la Federazione Russa sono particolarmente tese a causa della crisi ucraina, ma anche greca. A complicare le cose è anche il fatto che Gazprom è una società pubblica russa. Da Mosca la società ha detto che la posizione di Bruxelles è infondata. La Russia ha anche sottolineato che il gruppo è stato fondato in una giurisdizione esterna all'Unione ed è oltretutto un'impresa strategica della Federazione Russa. Stamani, in una conferenza stampa, il commissario alla concorrenza Margrethe Vestager ha voluto raffreddare gli animi, ribadendo di non voler politicizzare il dossier. Nei fatti, tuttavia, la questione rischia di peggiorare il già difficile rapporto tra Bruxelles e Mosca. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Domani il Consiglio europeo straordinario sull'immigrazione voluto dall'Italia dopo il nuovo naufragio con centinaia di vittime nel canale di Sicilia. Sono fiducioso che l'Unione europea possa cambiare passo e fare l'Unione europea non solo quando c'è da fare budget. Lo ha detto il premier Matteo Renzi questa mattina in Parlamento, augurandosi che il Consiglio UE sia qualcosa di diverso da un dotto club di specialisti tecnici. Credo che sia anche importante contemporaneamente cercare di far sì che le procedure per l'asilo siano procedure che siano gestite con un team europeo e naturalmente, come prevede il punto 6 del lavoro svolto dai ministri degli esteri, dal commissario Avramopoulos, possa essere un patrimonio non soltanto di un paese ma di tutti i 28 Stati membri. Infine, quarto e ultimo punto che noi proponiamo è quello di far sì che nella discussione vi sia un atteggiamento di particolare urgenza nelle vicende più emergenziali, perché la retorica del mai più funziona per uno spot televisivo. Abbiamo bisogno di far sì che non risucceda mettendoci del nostro anche in sede emergenziale. Robotica collaborativa, realtà aumentata, stampa 3D e logistica avanzata sui droni sono alcuni degli strumenti di un'avanguardia produttiva che la Germania ha cavalcato dal 2012, dando vita all'espressione Industria 4.0. Una quarta rivoluzione industriale che l'Europa deve cercare di far propria, come seppe fare per la prima rivoluzione industriale, per rilanciare la propria industria manifatturiera e contribuire agli obiettivi indicati dalla Commissione Juncker. Per Maurizio Gattiglio, presidente di EFRA, l'associazione europea delle fabbriche del futuro, l'Unione Europea deve investire nell'industria del futuro guardando anche all'Africa. Gigi Donelli lo ha intervistato in occasione del nono forum economico italo-tedesco. Quindi stiamo parlando essenzialmente di fabbriche che utilizzeranno delle nuove tecnologie, fabbriche che utilizzano ad esempio il 3D printing, realtà aumentata, robotica collaborativa, quindi robot che lavorano insieme agli uomini, e logistica avanzata, ad esempio sui droni. In linea di massima sono aziende che lavoreranno in un contesto economico dove i dati viaggeranno più delle merci. I paesi del sud Europa che hanno subito un effetto molto negativo dalla crisi degli ultimi anni potrebbero proprio dalla rivoluzione digitale giocare un ruolo importante, ad esempio verso il nuovo mercato dell'Africa. L'Africa sarà sicuramente il prossimo mercato. In questo momento, ad esempio, la Cina sta avendo una strategia verso questo nuovo mercato di costruzione di infrastrutture fisiche, proprio perché si pensa che il paese potrà svilupparsi solo tramite infrastrutture in maniera classica, ma pensiamo il vantaggio che potrebbe avere per i paesi del sud Europa riuscire a diventare dei service provider di tecnologie avanzate, digitali e di merci che viaggiano su autostrade digitali per il Nord Africa. Questo potrebbe di nuovo creare una crescita per questi paesi assolutamente notevole. È tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.